presento, il mio nome è Frank. Je suis Frank e vivo per il funk. Et je suis Frank, je suis le fils del punk. Del punk, ah. E quando è notte, favole di città. Anche se sono stanco, per tutti qui c'è funk. Porto con me la voglia di domani. Insieme a te, ti dico sì magari. Sotto la pelle c'è quello che cerco. Gli sguardi lucidi parlano di quello. Je suis funk. Je cherche ma fama. Per tutti qui c'è funk. Così non sono mai stanco. Quando è notte, favole di città. Il veleno si inghiotte. Legati al banco del bar. Insieme a te arrivo anche a domani. Insieme a te, prima che t'allontani. Mi faccio male di scanca. Quando è notte, la notte mi eccita. E porto con me la voglia di domani. Insieme a te, sì. Yeah.